Prossima fermata, Radio Città Fuscico. Fermata provvisoria. Una tappa della musica di domani. Bentornati a Fermata Provvisoria, il contributo del martedì di Fuscico Factory. Io sono Samuele e oggi parliamo di una band che si chiama Laser. Attivi già dal 2016, i Laser si formano a Vicenza e la formazione vede Alberto Rossato alla voce e alla chitarra, Luca Cenzi alla chitarra solista, Mirko Gonzo al basso e Giulio Panizzolo alla batteria. Sin da subito si distinguono per il sound tirato e la ricerca testuale diretta. L'omonimo album di debutto Laser è stato registrato allo Studio 2 di Padova e successivamente masterizzato agli Abbey Road Studios di Londra, quindi non uno studio qualsiasi, ecco. È uscito ad ottobre 2019 ed è un concentrato di forte impatto sonoro, ben collocabile in ambito alternative rock, ma con uno stile personale fortemente identificativo. La band si è già fatta notare anche dal vivo con numerosi concerti che le hanno fatto guadagnare l'attenzione dell'etichetta bolognese Area Sonica Records, con la quale firmano il loro primo contratto discografico. Adesso andiamo ad ascoltarci il primo singolo, La vera storia del mal di lei, poi parleremo direttamente col batterista Giulio Panizzolo. Sanguine Ciao Giulio, benvenuto su Radio Città Fujiko. Ciao, ciao a tutti, è un piacere essere qua. Grazie, grazie a te per l'intervista. Allora, innanzitutto com'è nato il vostro progetto? Beh, allora diciamo, il nostro progetto in realtà è nato dalle ceneri di un progetto precedente. Noi con questo progetto suonavamo già tutti insieme canzoni di Nirvana, dunque eravamo una cover band di Nirvana, appassionati di quel filone, un po' il filone grunge, e in generale insomma degli anni 90, della musica degli anni 90, della scena degli anni 90. A un certo punto un giorno ci siamo guardati in faccia e abbiamo detto forse è il momento di cominciare a fare qualcosa di nostro, attraverso cui poter esprimere la nostra vera identità musicale e lasciarci un po' alle spalle tutte quelle che erano state le nostre influenze in parte, no? Sì. E tutte le nostre passioni più che altro giovanili, no? È stato un passo un po' di crescita per noi, cominciare a fare qualcosa di nuovo e quindi di nostro soprattutto, e quindi abbiamo deciso di intraprendere, di cominciare un nuovo progetto dalle ceneri del vecchio, e abbiamo deciso quindi di conseguenza di cambiare nome e di provare a formare una nostra identità, perché è quello che ci interessa di più, insomma, è l'obiettivo che ci siamo posti, soprattutto prima di tutto verso noi stessi, insomma. Certo. Vedere, testare i nostri limiti e vedere dove riusciamo ad arrivare e fino a che punto riusciamo ad esprimerci. Ok, ecco, a proposito di influenze, quali sono quindi quelle che avete messo all'interno della vostra musica? Io, ad esempio, ascoltando le vostre canzoni, ci trovo una forte influenza degli After Hours. Sì, beh, certo, allora sicuramente gli After Hours sono un punto di riferimento da quel lato lì. Okay. Diciamo che per la musica, per la nostra musica prendiamo come riferimento gruppi come gli After Hours, soprattutto per trasferire un po' un senso di italianità nel nostro progetto. Diciamo che puntiamo molto sulla tradizione dei gruppi italiani, perché secondo noi sarebbero da valorizzare, sono anche forse adesso gli After Hours sono comunque un nome importante, ma esistono anche poi oltre a loro tutta una serie di altri gruppi o artisti che hanno fatto comunque pezzo importante della storia della musica italiana in quegli anni e che insomma noi cerchiamo di valorizzare attraverso anche la nostra musica, cioè prendiamo questi gruppi come influenze perché noi vogliamo essere un gruppo diciamo italiano da un certo punto di vista, ed è per questo che anche abbiamo scelto di scrivere testi in italiano, quindi di fare un genere che da un certo punto di vista è internazionale, perché sicuramente è un genere che è nato anche forse al di fuori e dopo è arrivato qui da noi, ma un genere comunque internazionale, ascoltato ed apprezzato in giro per il mondo, ma con l'impronta italiana dal punto di vista dei suoni. E quindi ed è per questo che siamo anche partiti da gruppi come dicevi tu, come gli After Hours o come anche i Verbena ad esempio. Sì. E dal punto di vista dei testi, per cercare di fare qualcosa di, se si può dire, di territoriale, ma comunque insomma di legato alla nostra tradizione, ecco, forse questo è meglio. E il vostro primo album omonimo è uscito ad ottobre 2019 e dopo le registrazioni a Padova siete andati ad ultimarlo agli Abbey Road Studios di Londra. Ci racconti un po', esatto, dell'esperienza londinese agli studi di Abbey Road? È stata un'esperienza fantastica quella, perché appunto grazie al nostro produttore Christopher Bacco, che ci ha anche registrato, ci ha dato questa opportunità, noi l'abbiamo colta al volo ed è stata un'esperienza fantastica. Io personalmente ero già stato diciamo fuori da Abbey Road, come penso molti di noi siano stati magari, ad attraversare le strisce, quelle robe lì, però dentro ovviamente non c'ero mai stato, quindi è stata veramente un'esperienza fantastica. Quello che ci ha colpito di più, eravamo io e il bassista, è stata innanzitutto l'umiltà delle persone che ci hanno accolto, perché là dentro veramente sono state scritte pagine memorabili della musica pop, insomma contemporanea, non solo pop intendo, e l'umiltà di queste persone che ci hanno accolto nei loro spazi, mostrandoci tutto quello che c'era praticamente all'interno, compreso la famosa sala insomma dei Beatles, diciamo, ecco, quello è stato l'aspetto che a me ha colpito di più. La persona con cui abbiamo lavorato, Alex Wharton, è stato veramente gentilissimo, super disponibile, e ci ha accolto come un gruppo, cioè questo è il punto, che lui qualche tempo prima, adesso non ricordo bene, aveva realizzato il master per i Pixies, che è un altro gruppo, sì, insomma, che noi prendiamo un po' come ispirazione anche tra gli altri. Quindi uno che ha fatto un master per i Pixies, il giorno dopo con noi si è comportato, io penso, alla stessa maniera con cui che si è comportato con i Pixies, cioè la valorizzazione dell'arte e della musica indipendentemente dalla nomea che uno può avere. Secondo me questo è, cioè veramente ci siamo sentiti a casa. E poi l'esperienza comunque di poter lavorare con le attrezzature di uno studio come Abbey Road dal punto di vista tecnico è sicuramente, ti dà una soddisfazione, e per noi è stata un'esperienza fantastica. Dopo vivere l'atmosfera di Londra è sempre bello, e quindi ci ha arricchito molto sicuramente. Bellissimo. Come fosse fragile. parlateci un po' del vostro album, non tanto a livello musicale, ma più a livello tematico, quindi cosa tratta, cosa vuole comunicare. Ma allora, io ti devo dire la verità che il processo è nato soprattutto da una ricerca dei suoni. I testi, ci sono delle tematiche che si possono trovare attraverso i testi, ne abbiamo anche discusso insieme. Diciamo che all'inizio i testi erano prerogativa quasi del cantante, come penso che succeda a molti gruppi, anche se non è detto, eh. Però poi c'è stata una discussione tra di noi, perché ovviamente si tratta di un gruppo e si tratta di un collettivo, e le tematiche che diciamo più che altro, la tematica che più che altro diciamo emerge da questi testi è soprattutto, a volte insomma, noi riflette un po' l'età che abbiamo, nel senso passaggio da quello che si può considerare insomma un'età in cui si è ancora, un'età diciamo forse infantile, ecco, un passaggio tra l'età infantile e un'età in cui si sente di avere delle responsabilità, maggiori responsabilità, in cui la vita cambia e non si vive più da un certo punto di vista sul mondo dei sogni, ma si vive forse più la concretezza della cosa. Diciamo che questo passaggio, che insomma noi adesso abbiamo un'età in cui penso che l'abbiamo anche già superato, però i testi riflettono un po' i ricordi o comunque le sensazioni anche negative che certe volte si provano in questo passaggio da una vita vista attraverso gli occhi quasi di puri sognatori, come quando si è adolescenti o roba, torna insomma a quell'età lì, alle scuole in cui c'è ancora scuola, e l'età in cui invece si comincia a vedere e a pesare di più la concretezza del mondo, insomma le difficoltà che una vita adulta comporta. Insomma, diciamo che la tematica forse è questa. Dopo ci sono tanti altri stimoli, perché io ancora oggi leggo i nostri testi e ci trovo sempre dei significati diversi, perché la scrittura non è una scrittura, diciamo appunto, che segue pedissequamente un tema, è una scrittura abbastanza libera, in cui forse certe volte a prendere il sopravvento è quasi la fonetica più che, sì, che la semantica, sì, sì. Diciamo. Quindi però se dovessi trovare un tema, questo anche discutendo tra noi sicuramente è stato un tema importante. Cosa ne pensate del panorama rock italiano attuale? Allora, ecco, si entra in un discorso molto complesso, diciamo. Noi cosa pensiamo? Noi stiamo provando ad entrarci, innanzitutto perché non lo conosciamo fino in fondo, non ne conosciamo i meccanismi. Diciamo che a livello da spettatori, potremmo dire, penso che la musica rock o la musica in generale sia, penso e pensiamo insomma, sia un po' in qualche modo deprezzata, nel senso al giorno d'oggi le dinamiche le conosciamo, comunque sono dinamiche di mercato, cioè la musica funziona come da un certo punto di vista soprattutto come un prodotto che deve essere venduto, e questo insomma lo sperimentiamo noi e lo sperimentiamo da qualche anno sicuramente, ma è un processo che si sta forse anche un po' troppo radicalizzando, sì. Nel senso che c'è proprio una spaccatura tra quello che potrebbe essere considerato il mondo underground, in cui c'è ancora molta vivacità culturale, molta vivacità, molta diversità, confronto tra sano e genuino tra gli artisti, la maggior parte delle volte, e appunto tutto ciò che ha a che fare invece con la facciata di quello che la musica rappresenta, diciamo, per uno che la mattina va in macchina, si ascolta la radio e si ascolta insomma tutta una serie di cose, che ovviamente sperimenta forse il lato più esterno di tutto quello che invece c'è dietro. Quello che c'è dietro è, secondo noi, l'underground da una parte, e dall'altra parte tutte queste dinamiche anche un po' perverse certe volte di mercato, che ti portano insomma a diventare un prodotto. Io sinceramente di questa cosa penso che sia anche naturale, perché viviamo in un'epoca che da un certo punto di vista funziona così in moltissimi ambiti, e quindi penso che sia anche normale che si sia arrivati a un tipo di situazione come questa, però penso che ci sia più da riscoprire un po' la genuinità dell'esperienza, quindi l'andarsi a vedere un concerto all'interno di un piccolo bar, piuttosto che trarre dalla musica qualcosa che possa veramente servire per noi, insomma, per stare bene e non solo qualcosa da consumare in maniera, una canzone tira l'altra, in maniera usa e getta quasi. Dopo, questo è il nostro pensiero, questo è il mio pensiero da spettatore esterno. È ovvio che noi stiamo cercando comunque di entrare un po' in questa realtà per conoscerla meglio, e che comunque è ovvio anche che ci sono molti gruppi e molti artisti che per fortuna ancora creano qualcosa di interessante, di innovativo, quindi la scena non è morta sicuramente, però ci sono un po' delle dinamiche che a volte portano all'esclusione di artisti o comunque persone che invece avrebbero dovrebbero essere valorizzate, secondo noi, insomma, ecco. Sì, sì, questo certo. È quello che pensiero generale. Avete concerti in programma prossimamente? Sì, allora abbiamo un concerto il 29 novembre, il 29 di questo mese, presso il Mamma Locca, un locale qua a Vicenza. Sarà un bel concerto, insomma, apriremo a una molto nota tribute band degli Oasis, di Supernova da Torino. Apriremo a loro, insomma, ci hanno sarà sicuramente una bella esperienza per noi, per far conoscere un po' la nostra musica. E poi ne abbiamo un'altra il 4 gennaio al, vabbè, l'Osteria Miles Davis, sempre a Vicenza, e per ora basta così, insomma stiamo cercando comunque di trovare altre date ed eventualmente booking, cose così, per far conoscere la nostra musica sempre di più. Ok, bene. E Giulio, un grande in bocca al lupo a te e alla band, e grazie mille per l'intervista. Niente, grazie a voi, grazie dell'ospitalità. Sono passi da gigante, niente di importante, come una cicatrice, mostrami alla luce, noi siamo sassi da vecchi, mobile e distante. Non c'è niente, non c'è niente, non c'è niente in te, ma non fa niente. Pelle già in fiamme, niente di importante, come i giorni trascorsi in gabbie per elefanti, con le sole tue carezze, silenzio imbarazzante. Non c'è niente, non c'è niente, non c'è niente in te, ma non fa niente. Non c'è niente, non c'è niente.